La parola pieno viene da una radice indoeuropea che sembrerebbe deputata a rappresentare i risultati del riempire. Ho fatto il pieno, vuol dire che l'ho riempito per benino il serbatoio. C'è anche la possibilità di dire che ho urlato a piena gola, che lui, non so, ne ha prese a piene mani e che il tale ha chiesto i pieni poteri magari qualche anno dopo essere stato laureato a pieni voti, non so. Qui è già chiaro che il significato del riempire è più sfumato, c'è una sorta di accrescitivo o di enfatizzativo che va a precisare il significato dei sostantivi cui l'aggettivo si correla. Se dico che il cacciatore ha colpito la preda è un conto, se dico che l'ha colpita in pieno è tutta un'altra cosa. La preda materialmente è sempre la stessa, ma l'abilità del cacciatore ne risulta enfatizzata. C'è allora un implicito giudizio di valore che anima il parlante. A conferma dell'ideologico sotteso vengono i titoli dei giornali. Giorni fa un rudimentale ordigno, presumibilmente di opposizione, sembra che sia stato deposto nei pressi di non so più che protettorato di Berlusconi. Bene, i giornali facevano rilevare che il sito si trovava in pieno centro. Giorni fa i giornali riferivano della brutta avventura toccata ad un noto imprenditore di Cremona, la città delle 3T. Stava dormendo a casa sua ed è stato svegliato dalla fastidiosissima sensazione di starci smenando l'orecchio destro, che infatti se lo stava mangiando un topo. I giornali non mancavano di rilevare che l'appartamento del noto imprenditore era per l'appunto in pieno centro. Dietro a questi usi linguistici c'è tutto un ben pensare. Traspare un'indignazione solerte, una specie di solidarietà di classe alta e indispettita che, se i teatri del dramma in questione fossero stati più in periferia, non si sarebbe riusciti ad esprimere. È tale il servilismo di quel pieno che precede il centro, è tale che viene il sospetto che se anche proprio in centro il teatro del dramma non fosse stato, gli si avrebbe dato volentieri una toponomastica spintarella, tanto per mostrarsi magnanimi e bandire ogni taccagnità. Il centro, come la morale, è elastico. Una bombetta e un topo, valgono doppio se non toccano ad un poveraccio qualsiasi ridotto ai margini del consorzio civile. Più li si spinge al nucleo, fa niente se è un nucleo d'altri tempi, quando la logica dell'abitare rispondeva ad esigenze ormai obsolete, più li si spinge al nucleo primigenio, all'intoccato cuore della città, più per la loro valenza trasgressiva, nefasta e mefitica, più si moltiplica quella stigmatizzazione sociale che da un lato spetta loro e dall'altro ritorna in termini di sonante consenso a ciò che le vittime rappresentano. Il linguaggio di chi può abbonda di questi marchingegni. Si sarà notato che la medesima funzione del pieno centro, per rimanere all'esempio, è svolta dal noto imprenditore. Pensate a quanto meno valesse, magari non per il topo ma per la pace sociale, l'orecchio destro di un imprenditore meno noto o addirittura ignoto, senza contare il malaugurato caso di un imprenditore poco noto che abitasse in periferia, che sarebbe esattamente il caso allora di cui nessun giornale da bene parlerebbe mai. Forse per un'inveterata pudicizia, quando qualche amico spiritoso, parlando di Cremona, aggiunge che è la città delle tre T, a me, lo psicanalista sa di certo il perché, a me vengono subito in mente le torri e il torrone. Non mi ricordo mai a cosa diavolo si riferisca la terza T. Da oggi invece so che si riferisce al topo.